Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema impegnativo ma che ci riguarda tutti e che è alla base anche del modo in cui stiamo in società, inteso come i legami sociali che ci collegano tutti. Il tema è quello del potere e lo facciamo con il libro di Lorenzo Infantino, che si intitola per l'appunto Potere, la dimensione politica dell'azione umana, pubblicato da Rubbettino, 19 euro, 322 pagine. Infantino è un docente universitario all'Università Luiss di Roma e il libro che ci dà naturalmente è particolarmente dotto, ma la lettura è adatta a tutti, non soltanto agli iniziati, proprio perché il tema ci riguarda tutti, come dicevo prima. In questi ultimi anni, non soltanto in Italia, si sta manifestando in gran parte dell'elettorato una grande fuga dalla politica, dall'attenzione, dalla passione per la politica, ma questa fuga naturalmente fa sì che il potere rimanga incorreggibile, anzi con meno controlli forse può fare ancora più danni. E allora Infantino segue qui un'ispirazione genuinamente liberale, spiega i meccanismi corruttivi del potere e parte dalla constatazione che l'uomo agisce per supplire a condizioni di scarsità e dunque i rapporti sociali che egli crea sono basati soprattutto sullo scambio volontario. Se questo meccanismo si inceppa e il potere, cioè chi lo esercita, in particolar modo oggi lo Stato, vuole intervenire modificando o eliminando questa prospettiva dello scambio volontario, i guai si fanno grossi. E ci spiega perché adesso Lorenzo Infantino. Buonasera a Lorenzo Infantino. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Lorenzo Infantino, come mai questa riflessione sul potere? So che questo è uno dei temi della sua riflessione, diciamo così, accademica, però questo libro si rivolge anche al pubblico, al cittadino comune. Ecco, qual è il messaggio per il cittadino comune che emerge da questo libro? Beh, innanzitutto direi che il libro non è rivolto solamente agli accademici, perché io nella mia vita mi sono voluto sempre occupare di problemi. E quindi per me la cosa più importante è cercare di dare una risposta a questi problemi, più che dialogare con accademici che a volte sono sordi ai problemi e che sono più interessati invece a percorrere le vie della loro carriera. Il potere è un problema centrale, il potere fa parte di quella categoria di concetti che spesso noi ripetiamo senza saperne il significato. E quindi mi sono dedicato a questo problema. In verità avrei voluto scrivere questo libro 30 anni fa, ma i tempi non erano maturi e invece adesso ho pensato negli ultimi anni di affrettare i tempi e di scrivere questo libro che vuole spiegare innanzitutto la dinamica sociale, perché non è possibile parlare di potere senza sapere prima che cosa sia la società, senza avere una teoria della società. Teoria della società che io avevo formulato in un altro libro precedente e che ho utilizzato per studiare appunto come nasce il potere. Io ho utilizzato un metodo, l'individualismo metodologico, che mi consente di disaggregare questo fenomeno. Quindi il potere nasce dalle relazioni intersoggettive, dove c'è società c'è potere, e quindi mi sono rifiutato di, come sovente altri fanno, di accettare il fenomeno senza indagarne le origini. Lei parla di società, quindi non condivide la famosa tesi della signora Thatcher che diceva che la società non esiste? Io dico semplicemente che la tesi o l'espressione più esattamente della signora Thatcher va interpretata correttamente. La società è un concetto collettivo, è uno stenogramma, direbbe Max Weber, con cui noi ci riferiamo alla cooperazione fra gli uomini. La signora Thatcher non voleva rifiutare l'idea della cooperazione fra gli uomini, voleva rifiutare l'idea che la società fosse qualcosa di terzo rispetto ai soggetti che interagiscono. E quindi sono cose che si possono coniugare perfettamente, nel senso che la posizione della Thatcher è una posizione che è sicuramente derivabile dall'individualismo metodologico che io ho utilizzato. Probabilmente fa paura dire che la società non esiste, come diceva la Thatcher, ma la Thatcher non voleva dire che non esiste la cooperazione fra gli uomini, ripeto, intendeva dire che la società non è un soggetto terzo, quindi il concetto è uno stenogramma che ci serve per indicare la cooperazione fra gli uomini, ma non possiamo reificare il concetto e farne un soggetto autonomo rispetto agli attori che agiscono. Lei nel libro propone tre modelli, diciamo, di convivenza civile che si rifanno a tre grandi personaggi: uno è Aristotele, uno è Machiavelli e poi c'è Platone, Sant'Agostino, che sono sulla stessa linea. Ecco, parliamo un momento di Machiavelli. Lei ricorda come nel Principe, di cui quest'anno abbiamo ricordato il 500° anniversario della pubblicazione, Machiavelli dimostri la propria propensione all'immagine del politico dissimulatore. Ecco, Machiavelli, secondo lei, è stato più un padre del moderno pensiero liberale, in quanto ha separato, per così dire, la religione dalla politica, o fu un ideatore, anche magari involontario, di un modello totalitario? Ma io penso semplicemente che il modello liberale non è derivabile da Machiavelli, perché, come lei avrà visto nel mio libro, la tradizione liberale io la faccio lentamente emergere dai grandi conflitti che si sono svolti in Inghilterra nel 600, e quindi poi emerge la tradizione Whig attraverso la gloriosa rivoluzione. E quindi Machiavelli, tra l'altro, che io ho attentamente esaminato, Machiavelli tra l'altro deriva il modello del tiranno da Aristotele, e poi Machiavelli non ha l'idea che il rapporto intersoggettivo possa essere un gioco a somma positiva. Insomma, ci sono molti elementi che non possono fare di Machiavelli un anticipatore delle idee liberali. Sicuramente è un teorico del potere, ma del potere per il potere, quindi di un potere autoreferenziale che è costretto a dissimulare nei confronti dei governati, ma non è sicuramente il potere nella concezione liberale del termine, in cui il potere pubblico, per essere più chiari, il potere pubblico svolge una funzione di complemento nei confronti della cooperazione sociale volontaria, che è il cardine della concezione liberale della società. Ecco, oggi quindi, alla luce di questa definizione, quali sono i rischi più importanti, più pericolosi, più attuali su questa visione liberale del potere? Come si sta espandendo e trasformando il potere nelle moderne società democratiche? Nella misura in cui prevale la cooperazione sociale volontaria, il potere pubblico diventa residuale, diventa un complemento di quella cooperazione. Ma man mano che noi consentiamo al potere pubblico di espandersi, il potere pubblico stesso diviene la variabile indipendente, e quindi la società diventa un epifenomeno del potere politico, e questo è molto grave, perché ci sono delle conseguenze che sono assai dannose per la vita dei cittadini, non solo per la loro libertà di scelta, ma anche per le condizioni in cui i cittadini vivono, perché la cooperazione volontaria consente quello che Hayek chiamava quel procedimento di esplorazione dell'ignoto e di correzione degli errori. Se noi restringiamo la sfera della cooperazione volontaria, impediamo a questo procedimento di svolgersi, e non solo perdiamo la nostra libertà di scelta, ma immediatamente c'è una caduta della produttività, a cui necessariamente fa seguito la caduta del prodotto. Osservare la nostra società alla luce di queste idee significa avere una lettura molto facile e avere consapevolezza dei guasti che noi abbiamo provocato stendendo la mano nei confronti del potere pubblico e chiedendo sempre aiuto, anziché pensare che la cooperazione volontaria è quella che ha dato benessere all'Occidente e a tutti noi. E questa estensione della mano pubblico si potrà contenere nel futuro, a suo parere? Io credo che il processo di globalizzazione ci costringerà tutti noi a ripensare il confine che separa la cooperazione volontaria, quindi il mercato, dall'intervento della mano pubblica. Saremo costretti, perché la conseguenza di una nostra insufficiente attenzione a questo problema ci porta alla marginalizzazione. Sono solito ripetere che lo stesso ammontare di risorse può produrre crescita, stagnazione o depressione o decrescita. Tutto sta come questo ammontare di risorse viene utilizzato. Se noi la utilizziamo attraverso la mano pubblica, noi non possiamo avere che sprechi, dispersione, mentre se noi alimentiamo il processo concorrenziale, ed allora in questo caso noi non possiamo avere che dei risultati positivi, perché il primo scopo che raggiungiamo è quello di aumentare la produttività del sistema. Grazie a Lorenzo Infantino, autore di Potere. Buona serata. Grazie e buonasera agli ascoltatori. Un'altra riflessione sul potere è quella di uno dei personaggi più affascinanti dello scorcio del Novecento che seguì alla caduta del comunismo, e cioè Václav Havel, esponente di punta del dissenso cecoslovacco e poi, dopo il crollo appunto del muro, primo presidente prima della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca. Di Havel, la casa di Matriona pubblica Il potere dei senza potere, 202 pagine, 15 euro, curato da Angelo Bonaguro. Dà titolo al libro un saggio scritto nel pieno dell'esperienza di Carta 77, che fu il movimento di dissenso del quale Havel fu uno dei protagonisti, diventandone anche il portavoce, e questo naturalmente gli costò una lunga esperienza in carcere. Nell'ottobre del 78 Havel scrive questo saggio, nel quale il futuro presidente rivendica una gestione umana del potere, scagliandosi naturalmente contro il modello dittatoriale. C'è un'efficace immagine alla quale Havel ricorre, quella dell'ortolano che, per non avere guai, tutti i giorni inalbera nel proprio negozio il cartello "Proletari di tutto il mondo unitevi" che il partito gli impone di esporre, fin quando si rifiuta, con questo dando espressione a una voglia di libertà. Infatti, senza l'esempio dell'ortolano rischia di essere anche contagioso, e questo naturalmente è un meccanismo che il sistema dittatoriale non ammette, perciò l'ortolano la pagherà. Con questa ribellione, scrive Havel, l'ortolano esce dalla vita nella menzogna, rifiuta il rituale e viola le regole del gioco, ritrova la propria identità, la propria dignità soffocata e realizza la propria libertà. La sua ribellione sarà un tentativo di vita nella verità. La riflessione di Havel non si arresta al sistema comunista, anche in quello capitalista egli individua una crisi non meno importante, quella che egli chiama la crisi dell'odierna civiltà della tecnica nel suo insieme, una tecnica che è sfuggita di mano all'uomo, scrive Havel, che ha smesso di servirlo, lo ha reso schiavo e l'ha costretto ad assisterla nella preparazione della sua rovina. E allora, che cos'è la politica per Havel? La politica, scrive, non può essere solo l'arte del possibile, deve essere piuttosto l'arte dell'impossibile, cioè l'arte di rendere migliori se stessi e il mondo. E giovedì scorso abbiamo salutato un altro grande combattente per la libertà, Nelson Mandela, e di lui Feltrinelli aveva pubblicato pochi mesi fa la edizione economica dell'autobiografia che si intitola Lungo cammino verso la libertà, 600 pagine, 14 euro. E proprio a Mandela dedicava un capitolo molto interessante Roberto Escobar nel libro dell'anno scorso Eroi della politica, pubblicato dal Mulino, 212 pagine, 15 euro, nel quale troviamo alcuni ritratti appunto di personaggi storici che hanno contribuito a grandi svolte della politica, tra le quali appunto la figura di Nelson Mandela. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. La settimana che si apre domani vedrà la consegna dei premi Nobel. Allora vi voglio segnalare un paio di titoli da Nobel. Il primo in particolare si ricollega al tema che abbiamo affrontato poco fa, quello della politica, del potere, ed è una raccolta di saggi del filosofo e pacifista inglese, anzi per la verità gallese, Bertrand Russell, premio Nobel per il 1950 per la letteratura, saggi tra i quali troviamo proprio il discorso che egli tenne l'11 dicembre del 1950 in occasione del conferimento del premio. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, I have chosen this subject because I think that most current discussions of politics and of political theory take insufficient account of psychology, economic facts, population statistics, constitutional organization and so on are set forth. Il libro si intitola Il credo dell'uomo libero, la cosa principale necessaria per rendere felice il mondo è l'intelligenza, recita il sottotitolo, ed è pubblicato da Piano B Edizioni, 136 pagine, 12 euro, tradotto da Antonio Tozzi e Alessandro Migliotti. Nel discorso del 50, di cui abbiamo sentito alcune battute, Bertrand Russell riprende un concetto che è caro a Infantino. Egli scrive infatti che tutta l'attività umana è spinta dal desiderio, e tra questi desideri prevale proprio l'amore per il potere. Ma la politica concluderà se le è interessata alle mandrie piuttosto che le persone. Le passioni che sono importanti in politica sono dunque quelle in cui i vari membri di un determinato branco possono sentire allo stesso modo. È quello che oggi potremmo dire il meccanismo delle corporazioni che cercano di massimizzare i propri interessi. E queste passioni, conclude Russell, spesso finiscono col prevalere sull'interesse personale, con conseguenze negative, come dimostra il passo finale che adesso vi propongo. Se gli uomini fossero mossi da interessi personali, cosa che non è con l'eccezione di pochi virtuosi, tutto il genere umano collaborerebbe. Non ci sarebbero più guerre, non più eserciti, non più flotte, mai più bombe atomiche. Non ci sarebbero eserciti di propagandisti impiegati ad avvelenare le menti della nazione A contro quelle della nazione B e reciprocamente della nazione B contro la nazione A. Non ci sarebbero eserciti di funzionari alle frontiere per impedire l'ingresso di libri e idee straniere, per quanto eccellenti esse siano in se stesse. Non ci sarebbero barriere doganali per garantire l'esistenza di molte piccole imprese, laddove una grande impresa potrebbe risultare più economica. Tutto questo accadrebbe molto rapidamente, se solo gli uomini desiderassero così ardentemente la propria felicità, come essi desiderano la miseria dei propri vicini. Non vorrei terminare con una nota di cinismo. Non nego che esistano cose migliori dell'egoismo e che alcune persone riescano a raggiungerle. Tuttavia ritengo che ci siano poche occasioni in cui grandi masse di uomini, come quelle di cui si occupa la politica, possano superare l'egoismo. Molto di ciò che passa come idealismo è odio o amore del potere, mascherati. Quando vediamo grandi masse di uomini influenzate da quelle che sembrano essere nobili motivazioni, è bene guardare sotto la superficie e chiedersi cos'è che rende queste motivazioni tanto efficaci. Sui meccanismi del Nobel è interessante la ricostruzione di un docente di letteratura italiana e svezia, Enrico Tiozzo, che ci dà una gustosa storia per ricostruire il modo in cui il Nobel viene attribuito ogni anno. Egli in particolare si riferisce all'esperienza dei Nobel per la letteratura, che come ricorderete quest'anno è stata conferita alla canadese Alice Munro. Il libro si intitola Il Nobel svelato, è pubblicato da Ragno, 230 pagine, 15 euro. Si parla anche naturalmente di molte bocciature in questo libro. Per esempio si ricorda che non sono mai riusciti a vincere il premio Nobel Tolstoi o Ibsen. Oggi per conquistare il premio bisogna seguire almeno 10 anni di trafila, ci spiega l'autore. Il meccanismo è complicato, come ne fece in particolare le spese un grande poeta italiano che teneva moltissimo al conferimento del Nobel, Giuseppe Ungaretti, che a lungo quindi brigò per ottenerlo, sbagliò completamente la tattica e si vide assegnare il Nobel del 1959 alla letteratura a un suo grande concorrente italiano, naturalmente, cioè Salvatore Quasimodo. A quel punto, scrive l'autore, Ungaretti ebbe un incontrollato scoppio d'ira e liquidò l'Accademia di Svezia e la sua commissione Nobel come un'accolita di personaggi corrotti o rimbambiti. A volte, naturalmente, hanno avuto luogo degli errori autentici. Per esempio, nel 1950, proprio l'anno in cui Russell vinse il premio Nobel per la letteratura, questo venne negato a Benedetto Croce con la motivazione che era troppo vecchio. Ma lo stesso Russell, però, quell'anno aveva già la veneranda età di 78 anni. E tra l'altro in quell'anno Russell batté autori come Faulkner o Hemingway, in particolare il giudizio su Hemingway fu pesantissimo. Un giurato scrisse infatti che il suo ultimo romanzo, Di là del fiume tra gli alberi, mostra una deplorevole sciatteria sia per quanto riguarda la tecnica che l'interesse umano, oltre a indiscutibili ripetizioni di spunti precedenti. Interessante anche le vicende relative al primo premio Nobel che venne assegnato all'Italia, quello a Giosuè Carducci nel 1906. Quell'anno correvano 2 italiani, lo stesso Carducci, e prima di lui era stato candidato Fogazzaro, anzi proprio quest'ultimo aveva candidato Carducci che poi prevalse sul primo. E dell'ultimo premio letterario a un italiano si parla naturalmente, che è quello dato a Dario Fo, un premio che l'autore non sembra apprezzare troppo. Infatti ricorda Tiozzo che per giustificare il premio a Fo si ricorse alla formula buona per tutte le stagioni, leggo dal suo libro, sull'importanza di rivelare al mondo una lingua, un'attività culturale finora ignorata, aprendo così teoricamente la strada a tutte le forme dell'ingegno umano e facendo improvvisamente del Nobel per la letteratura un premio multiuso, attribuibile anche ad attori, cantastorie, forse pittori, mimi e via di questo passo. E con questo naturalmente poi il cerchio si chiude con le ultimissime edizioni del premio. Il Nobel per la fisica quest'anno è stato attribuito al belga François Englert e al britannico Peter Higgs per i loro studi sulla particella appunto di Higgs, una scoperta alla quale hanno contribuito anche vari studiosi italiani al CERN di Ginevra. E su questa scoperta segnalo di Jim Bagot, che è uno scrittore scientifico, il libro Il bosone di Higgs, pubblicato da Delphi, 260 pagine, 23 euro, curato da Franco Ligabue. Come ricorderete, soltanto nel 2012 ebbe luogo la vera e propria scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra. Fino allora quella era stata un'intuizione che Higgs aveva avuto appunto nel 1964 per spiegare la massa delle particelle elementari. Quindi questo libro è precedente alla scoperta del bosone, perché il libro risale al 2011, e qui troviamo la spiegazione della teoria e le tappe che avrebbero poi portato al risultato di Ginevra. E sulla scienza un testo divulgativo è quello di Flavio Oreglio, che prima di essere un comico è stato insegnante di matematica e scienze. Il suo libro si intitola Storia curiosa della scienza, la rivoluzione degli arabi. Questo è il secondo volume di una serie pubblicata da Salani, 180 pagine, 14 euro. La prima tappa era stata quella sulle origini pagane delle innovazioni scientifiche, adesso si parla del contributo degli arabi in un periodo come il Medioevo, che non fu affatto un periodo buio come normalmente lo si considera. Scrive Aurelio infatti che il Medioevo più che oscuro fu un chiaro oscuro, meglio, ebbe luminosità variabile in funzione delle zone geografiche. Quindi qui troviamo una cavalcata se efficace su quel periodo, sulle tappe, sui personaggi più importanti del Medioevo fino alla rivoluzione copernicana. Ultimi arrivi. Ci richiama agli anni Ottanta il libro di Max Pezzali, l'inventore degli 883 e poi solista, che racconta la sua vita e le sue esperienze musicali nel libro I cowboy non mollano mai, pubblicato da ISBN, 224 pagine, 16 euro. Vi segnalo poi la seconda prova di un manager convertitosi alla scrittura con successo, in particolare alla scrittura di noir, l'autore Riccardo Perisic, che si ripropone con il libro Il seminatore, pubblicato da Longanesi, 484 pagine, 17,60 euro. Che consiste in un appassionante intrigo internazionale che parte da un attentato suicida alla sinagoga di Parigi e che coinvolge la capitale francese, Roma e il Vaticano, che rivelerà un terribile complotto a livello internazionale. Un libro che gioca sulla capacità di intuizione informatica, che richiama certe notizie anche di cui abbiamo letto nelle settimane scorse. E infine vi segnalo il libro di una grande italiana da poco scomparsa, Margherita Hack. Questo è il suo ultimo libro, Italia sì, Italia no, edizioni dell'Altana, 122 pagine, 12 euro. È uno scritto concluso proprio poche ore prima della scomparsa della grande scienziata, che mancò il 29 giugno scorso. Si tratta di alcune riflessioni sull'Italia contemporanea punteggiate da una serie di vorrei e non vorrei, nel quale la Hack espone le sue passioni e le sue idiosincrasie. E a questo punto il confettino. E rimaniamo in ambito scientifico con un libro di Elena Joly, Nero come un buco nero, illustrato per le edizioni Dedalo da Franco Grazioli, 72 pagine, 7,50 euro. Un insegnante di fisica accompagna i ragazzi a comprendere uno dei più suggestivi misteri dell'universo, quello appunto dei buchi neri, di cui anche i grandi potranno capire l'origine e il destino. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.